Radio Godzilla. Radio Godzilla. 哥斯拉广播电台。 E buongiorno a tutti e rieccoci nuovamente alla nostra amata rubrica, probabilmente la più amata da me che leggo, gente che legge cose. E visto la giornata un po' uggiosa di oggi, questo triste e piovoso mercoledì di dicembre, oggi leggiamo Ecstasy, allargamento della coscienza, restringimento dello stomaco. Questa guida è un tentativo di riunire in un unico documento organico vari materiali raccolti via internet e in altre pubblicazioni specialistiche riguardo l'MDMA. In teoria, qualsiasi informazione riguardo l'MDMA potrà essere soddisfatta dalla presente guida, anche se in pratica vi possono essere alcune informazioni mancanti. Infatti il lavoro è ben lontano dall'essere definitivo e si presenta più come un lavoro in divenire. La guida ha uno scopo puramente informativo, intende fornire tutta una serie di informazioni che un regime di tipo proibizionista tende a soffocare, secondo una rigida equazione, per cui disinformazione uguale abuso. Abuso significa interessi miliardari e potentati e il cerchio si chiude. Nella certezza che chiunque in qualsiasi momento può acquistare o voler provare l'MDMA e correre i rischi a cui la disinformazione può portare, quindi la circolazione, duplicazione e distribuzione di questo materiale non a scopo di lucro è vivamente consigliata. Generali. L'MDMA, anche conosciuto come ecstasy, è un composto semisintetico. Nella sua forma pura appare come una polvere bianca cristallina. Generalmente viene acquistato e consumato in capsule, pastiglie e rare. Il costo può fare dalle 30 alle 50.000 lire. Viene generalmente consumato per via orale o attraverso inalazione, anche se può essere fumato ed iniettato in vena. Dal 1990 in Italia è proibito dalla legge sia il consumo che la produzione. L'MDMA venne brevettato nel 1913 da una compagnia tedesca chiamata Merck e il brevetto non ne contemplava i possibili usi. Nel 1953 l'US Army Chemical Center se ne interessò brevemente, concludendo che era meno tossico di altre sostanze conosciute e quindi non interessante dal punto di vista bellico. Rimase chiuso in un cassetto fino al 1976, quando Alexander Shulgin se ne interessò per le sue qualità psicoattive. Per un approfondimento in senso storico, vi rimandiamo a Fecal, di Alexander Shulgin, materiale che potete trovare principalmente in internet, ma che ci cureremo di tradurre al più presto. Dosaggi. Generalmente il dosaggio iniziale varia dagli 80 ai 160 mg per via orale, anche se va segnalata l'esperienza di alcuni monaci benedettini americani che per scopi meditativi assumono dosaggi varianti tra i 40 e i 60 mg, e di molti terapisti che utilizzano un dosaggio così basso per entrare più in sintonia col paziente durante le sedute. Una convenzione generale vuole che il dosaggio a persona debba essere di 2 mg per chilo, anche se l'azione della droga non è necessariamente collegata al peso. Se consumata per via orale, gli effetti si manifestano dopo circa 30-40 minuti. Se inalata, iniettata o fumata, gli effetti compariranno e svariano con maggiore rapidità. Gli effetti primari raggiungono il picco dopo circa 1-1 ora e 30, permettendo per un tempo variabile dalle 4 alle 6 ore, dopodiché cominceranno ad attenuarsi, lasciando dopo circa 7-8 ore spazio agli effetti secondari. Gli effetti secondari possono permanere per alcuni giorni, mentre gli effetti terziari di tipo psichico quantificazione della coscienza possono permanere definitivamente. Sto morto senza fare niente, me ne torna a casa. C'è mia madre preoccupata che mi dice dai riposa. Poi mi trovo rinzoletto stesso e con un ago appeso. Che sta addosso che mi passa per bene, effetto mi fa. Maledetta droga si rovina mia, mi hai distrutto bene questa vita mia. Ero innamorato di una donna che non mi cerca più, è tutta colpa tua. Che ti 18 anni che me la già fa, se non vanno niente senza libertà. Ormai la giovenza sono schiave te, soltanto te. Nel borsello di mia madre impazzisco io. Ho bisogno di una dose per vivere a modo mio. E se ho fatto questo sbaglio è per sentirmi un altro io. E adesso quando chiudo gli occhi vedo tutto buio addio. Maledetta droga sia rovina mia, mi hai distrutto bene questa vita mia. E si 18 anni che me ne già fa, sia padrona tu ma non fumata. Disintossicarmi tanto vorrei, ma un giorno all'altro ci ritroverei. Sono l'uomo che prende i comandi da una polvere bianca che mi fa. E dopo questo fantastico pezzo, rieccoci ancora al nostro bellissimo libello Ecstasy, allargamento della coscienza, restringimento dello stomaco. E andiamo al capitolo controindicazioni e sovradosaggi. L'MDMA causa un sensibile aumento della pressione sanguigna e dei battiti cardiaci, paragonabile nella maggioranza dei soggetti ad uno sforzo fisico moderato. Per tale motivo, e perché in molti soggetti vi si possono avere complicazioni cardiovascolari più gravi, la reazione a sostanza di questo tipo è assolutamente soggettiva e se ne sconsiglia l'uso a soggetti che soffrono di pressione alta, problemi cardiaci, problemi renali, problemi epatici. Le stesse raccomandazioni valgono per soggetti ipersensibili alle droghe. È consigliabile in ogni caso interrogare il proprio organismo prima di assumere qualsiasi sostanza psicoattiva. Sono stati documentati casi di decesso legati al consumo dei MAO, inibitori, una categoria di antidepressivi, associati all'assunzione di MDMA. È quindi fortemente sconsigliato il consumo a coloro che utilizzano questi tipo di antidepressivi. È bene consultare il proprio medico per sapere se gli antidepressivi somministrati appartengono alla categoria dei MAO inibitori. Inoltre, è bene sapere che alcuni antidepressivi, Prozac, Zoloft, possono inibire alcuni degli effetti dell'MDMA. L'MDMA è ritenuta essere una droga abbastanza sicura e, a condizione che sia in contatto continuo con ciò che il nostro corpo ci sta dicendo. L'euforia indotta può spingere a non considerare segnali di forte stress fisico. È bene stare attenti a problemi come la disidratazione, bere molta acqua e succhi di frutta, crampi muscolari, capogiri, esaurimenti fisici e sovraffaticamento. Molta documentazione proviene dall'Inghilterra, riporta casi di raver che hanno ballato fino alla completa disidratazione e sfinimento tali da rendere necessaria l'ospedalizzazione, portando in alcuni casi alla morte. Un sovradosaggio di MDMA è caratterizzato da una tachicardia, aumento della pressione sanguigna, svenimenti, crampi muscolari e attacchi di panico. Se vi imbattete in uno di questi sintomi, sedetevi, riposatevi, bevetevi un succo di frutta, dell'acqua o una bevanda ricca di sali minerali. Nel caso i sintomi non scompaiono e sopraggiungono inoltre perdita di coscienza e disturbi visivi, è bene ricorrere al più presto all'aiuto di un medico. Effetti. Gli effetti fisici delle dosi abituali dell'MDMA sono soggettivi e variabili. Alcuni consumatori raccontano di aver avuto la bocca asciutta, tiramenti di mascella, digrignamento dei denti, movimento involontario degli occhi, sudorazione eccessiva, nausea. Altri raccontano sensazioni di profondo rilassamento fisico. Nel caso di sovradosaggi, gli effetti fisici dell'MDMA assomigliano a quelli tipici delle anfetamine: tachicardia, sudorazione, capogiri, irrequietezza. Gli effetti psicologici sono un po' più difficili da descrivere, dal momento che sono molto più vari e numerosi. I più comunemente riportati sono entatogenesi, è una sensazione generale in cui tutto pare giusto e buono per il mondo. Soggetti sotto MDMA descrivono spesso una sensazione di pace e di gioia totale. Inoltre, tutto ciò che generalmente può apparire quotidiano e banale appare come incredibilmente bello e interessante. Empatogenesi è una sensazione di sintonia emotiva con l'altro, insieme a una completa rimozione delle barriere relazionali nella comunicazione. Soggetti sotto l'MDMA riferiscono di una sensazione di maggiore facilità nelle comunicazioni, qualsiasi chiusura sembra scomparire. Tale effetto è ritenuto parzialmente responsabile del nome di droga dell'abbraccio, che in tempi di Covid molta gente utilizza l'MDMA principalmente per questo tipo di effetti, rendendo situazioni sociali potenzialmente difficili e imbarazzanti, appuntamenti e discoteche, più brillantemente gestibili. Le parole fluiscono come l'acqua, riportano testimonianza, sembra di saper dire sempre la cosa giusta nel momento giusto. È come un filtro posto tra ciò che vorremmo esprimere e ciò che esce dalla nostra bocca. Il risultato è che dalla tua bocca escono cose che non ti saresti mai aspettato di poter dire. Lo stesso consumatore riferisce di aver cercato a lungo tale effetto nell'alcol, ma ha trovato l'MDMA molto più efficace. Il primo buco l'ho fatto una sera, a casa di un amico, così per provare. E mi ricordo che avevo un po' paura, c'è molta violenza, in un ago nelle vene. Ma in un attimo una fitta di dolore, secondo da aspettare, poi un'onda dolce di calore, quasi come nell'amore. E poi mi sono lasciato andare, completamente rilassato, in un benessere artificiale, come mai avevo provato. Ma poi a casa me lo son giurato, che io non ci sarei cascato. Le imparerò ad usare, mi saprò gestire, non mi farò fregare. Ma ci continuavo a pensare, usciva dalla mente. E man mano che passava il tempo, diventava la cosa più importante. E poi non me ne frega niente di quello che dice la gente. Tanto siamo tutti assuefatti di cosa, non importa niente. E continuavo a aumentare, facevo quasi tutte le sere. E a appena fatto mi scoprivo a temere, non riuscirne più a trovare. E poi ore, ore, ore, fuori da una farmacia ad aspettare, e quello stronzo d'un dottore che non me ne vuole dare. Ma lui che cazzo gliene frega, ma un giorno me la paga. Un giorno passo con un sasso e gli faccio la vetrina nuova, ed è presto di una fiala, e la sei ore che mi sbaglio. Se non mi faccio uno stenolo stasera, lo sai, divento me. Rieccoci nuovamente insieme. Leggiamo un capitolo importante di questo libello: autopsicanalisi e autointrospezione. Dal momento che l'MDMA può stimolare uno spettro molto ampio di benefici psichici, molti consumatori preferiscono e alternano un uso più psicologico della sostanza, utilizzandolo in coppia o gruppi di amici affiatati per gli scopi più disparati. Un capitolo a parte sarebbe l'utilizzo dell'MDMA per fini psicoterapeutici. Ad esempio, la SAPT, Società Svizzera per la Psicanalisi, un'associazione che riunisce 5 psichiatri, ha condotto per circa 10 anni esperienze con centinaia di pazienti, ma un decreto governativo del 1993 ne ha interrotto la sperimentazione sui nuovi soggetti. Alcuni di questi analisti sostengono che una seduta di MDMA vale come 3 mesi di seduta ordinaria. Per un approfondimento in tal senso vi rimandiamo a Ann Sanders e È come ecstasy, capitolo 9. Un uso sensoriale. Lo stimolo percettivo dovuto all'estasi può rendere l'attività sensoriale particolarmente divertente. Il tatto può diventare una sensazione talmente totalizzante che il contatto fisico, sia sessuale che non, può diventare un'esperienza dai contorni mistici, specialmente con qualcuno che condivida gli effetti empatogeni della sostanza. L'abbracciarsi, il toccarsi e l'accarezzarsi tra consumatori è rito diffuso ed abituale. Mangiare, bere, annusare e persino pisciare e cagare diventano sensazioni di intima e intensa unicità. L'MDMA può essere anche mischiato ad altre droghe per un tipo di esperienza diversa. Indicazioni circa l'uso frequente. La maggior parte dei consumatori racconta che dopo un uso frequente nel tempo e protratto a lungo, in un numero minimo di alcune dozzine di esperienze, gli effetti desiderati della droga appaiono attenuarsi, come se si perdesse la magia. Molti riferiscono che anche dopo aver interrotto per anni e averla ripresa di nuovo, comunque non hanno provato le sensazioni delle prime volte. Altri ancora, dopo centinaia di esperienze in MDMA, ancora considerano i benefici maggiori dei danni. L'effetto della terapia della magia può essere comunque spiegato da un meccanismo psicologico, la perdita della novità. Va comunque segnalato che questo tipo di effetto non pare essere così pronunciato con altri tipi di droghe psichedeliche come LSD, DMT o STP. Questo fenomeno può essere spiegabile dalla permanenza a livello neurofisiologico di residui della sostanza, oppure da vere e proprie alterazioni neurochimiche in seguito all'assunzione dell'MDMA. Lo stato originario della nostra struttura neurochimica permetteva l'intensità estatica delle prime esperienze. È a tutt'oggi una questione irrisolta se queste alterazioni producono modificazioni neuropsicologiche più benefiche che malefiche o neutrali. Se decidi di sperimentare l'MDMA per la prima volta, tieni presente che le prime esperienze sono le più intense. Fanne quindi un uso accurato. Alcuni spunti riflessivi. Come abbiamo visto, la famiglia delle metanfetamine è molto grossa e sorelle nuove nascono di continuo. Molti laboratori clandestini alterano di continuo le strutture delle sostanze per ottenere composti che possono aggirare le tabelle di sostanze illegali decise dai governi e godere di una temporanea immunità per la circolazione sul mercato. Si ricorda a tal proposito che nel primo grande caso di sequestro di MDMA in Italia, i carabinieri dovettero restituire le pastiglie al legittimo proprietario. L'anno successivo, l'MDMA venne incluso nelle sostanze proibite dalla legge. Anche se questa sfida chimica può sembrare interessante e divertente, vorremmo rammentarvi che ogni composto può presentare comunque specifiche neurotossicità ed effetti secondari e che la velocità con cui queste nuove sostanze vengono immesse sul mercato non ne permette uno studio e una conoscenza adeguata. È necessario avere la consapevolezza di essere in questo senso tutti delle cavie. Comportarsi di conseguenza è il minimo. E con questo ultimo paragrafo vi salutiamo in questa breve e eccitata e questa estasiata rubrica di gente che legge cose. Vi dà appuntamento alla settimana prossima e vi ricordo sempre che se avete proposte su documenti o qualsiasi altra cosa che vorreste farmi leggere, vi ricordo di chiamare il numero ufficiale di Radio Godzilla, che è lo 06 23 23 23. Il primo o la prima che chiamerà vincerà il premio per la settimana prossima. Fun, baby. Get higher, baby, and don't ever come down. Freebase!